Il terzo anello ad alta voce. La certosa di Parma di Stendhal. Quando si vide davanti Fabrizio, Gina perse completamente la testa. Lo abbracciò convulsamente. Poi, vedendo che sul vestito le erano rimaste macchie di sangue, fu terrorizzata. Il sangue veniva dalle ferite che Fabrizio si era fatto alle mani, ma lei pensò che fosse ferito gravemente e, aiutata da uno dei suoi uomini, incominciò a spogliarlo per medicarlo. Per fortuna c'era lì Ludovico, che la costrinse a salire con Fabrizio su una delle carrozzelle che aspettavano, nascoste in un giardino vicino alle porte della città. Partirono subito, di gran carriera, verso il Po. Fu solo quando arrivarono a una decina di leghe dal Po che Fabrizio si svegliò del tutto. Aveva una spalla lussata e molte escoriazioni. La duchessa continuava a comportarsi in un modo talmente strano che quando si fermarono a far colazione in un albergo, il padrone si convinse di avere a che fare con una principessa di sangue reale. Stava già per correre a far indire i debiti festeggiamenti, ma Ludovico gli disse che se gli fosse passato per la testa di far suonare le campane, la principessa lo avrebbe fatto buttare senz'altro in prigione. Finalmente, verso le 6 di sera, arrivarono in territorio piemontese. Adesso Fabrizio era veramente al sicuro. Lo portarono in un paesetto isolato, lontano dalla strada maestra. Gli medicarono le mani e lui si addormentò di nuovo e dormì per qualche ora. Il giorno dopo, sul presto, Gina e Fabrizio erano a Belgirate. Si stabilirono in quel paesetto delizioso. Ma un gran dolore attendeva Gina sulle rive di quel lago. Fabrizio era completamente cambiato. Appena lui si era svegliato da quella specie di letargo dopo la fuga, Gina si era resa conto che gli stava succedendo qualcosa di molto strano. Fabrizio cercava in tutti i modi di tenerlo nascosto, ma in realtà il motivo della sua profonda malinconia, un motivo piuttosto bizzarro, non era altro che questo. Era disperato d'essere fuori di prigione. E si guardava bene dal confessarlo, perché sapeva che allora Gina gli avrebbe fatto un'infinità di domande, e erano domande cui lui non voleva rispondere. «Ma come?» gli diceva lei senza riuscire a capire. «Non era spaventoso quel che provavi quando la fame ti costringeva a mangiare quella robaccia che ti davano in prigione? E dovevi continuare a chiederti, non ha uno strano sapore? Non staranno avvelenandomi? Non ti fa orrore quando pensi a quel che dovevi provare?» «Alla morte», rispondeva Fabrizio, «ci pensavo come credo che ci pensino i soldati. Era una cosa possibile, ma pensavo che con un po' di abilità sarei riuscito a cavarmela». E Gina ne provava una grande ansia e ne soffriva. Fabrizio, lui che una volta era così pieno di vita, così diverso dagli altri, adesso davanti a lei era sempre assorto, pensieroso. Non aveva più voglia di stare con la migliore amica che avesse al mondo, a parlare di tutto, a cuore aperto. Preferiva star solo. Sì, era buono, premuroso, pieno di gratitudine. Sarebbe stato ancora pronto come una volta a dare la vita per lei, ma il suo cuore era altrove. Certe volte facevano lunghe passeggiate sulle rive del lago, senza dirsi neanche una parola. Forse a altri sarebbe piaciuto stare a conversare tranquillamente, senza entusiasmo, l'unico rapporto ancora possibile tra loro. Ma per loro era diverso, loro, e specialmente Gina, si ricordavano troppo bene che cos'erano le conversazioni di una volta, prima che quel duello con Giletti venisse a separarli. Fabrizio aveva da raccontarle la storia di quei terribili 9 mesi di prigione, e tutto quello che trovava da dirle erano soltanto poche frasi, vaghe, inconcludenti. Doveva capitare prima o poi, pensava lei, presa da una cupa tristezza. A furia di soffrire, sono invecchiata. O forse lui è veramente innamorato e c'è un'altra prima di me nel suo cuore. Quanto poi alla persona che era al centro di tutti i pensieri di Fabrizio, non potevano esserci dubbi. Clelia Conti, quella ragazza così buona, così devota, era arrivata a tradire suo padre facendo ubriacare le guardie. Eppure Fabrizio non ne parlava mai di Clelia. Certo, pensava Gina disperata, Se le guardie non fossero state ubriache, tutti i miei piani non sarebbero serviti a niente. È lei che lo ha salvato. E doveva fare grandi sforzi per indurre Fabrizio a raccontarle qualche particolare su quanto era accaduto quella notte. E pensava, ne avremmo parlato e riparlato una volta. Bastava che io gli dicessi qualcosa, anche un niente, e lui era capace di andare avanti a parlare per tutta una giornata, con un tale spirito, un tale brio. Per prudenza, Gina aveva mandato Fabrizio a abitare a Locarno, sulla costa svizzera del Lago Maggiore. Andava tutti i giorni a prenderlo in barca per fare lunghe passeggiate sul lago. Bene, una volta che le venne in mente di salire in casa sua, vide che le pareti delle stanze erano tappezzate da un'infinità di vedute di Parma, che lui si era fatto venire da Milano o direttamente da Parma, da quella città che avrebbe dovuto detestare. Il salotto, trasformato in studio, era pieno di pennelli, di colori. Fabrizio stava finendo un acquerello con una veduta della Torre Farnese e della palazzina del governatore. Ne aveva già dipinti altri due sullo stesso soggetto. «Ormai, gli disse Gina con un'aria piuttosto seccata, ti manca soltanto di dipingere a memoria un ritratto di quel simpaticone del governatore. Dopotutto voleva soltanto avvelenarti. Anzi, adesso che ci penso, dovresti scrivergli per scusarti di esserti preso la libertà di scappare e di aver messo in ridicolo la sua cittadella. Quella povera donna non poteva certo immaginarsi di essere andata tanto vicina alla realtà». Appena si era trovato al sicuro, infatti, Fabrizio si era precipitato a scrivere al generale Fabio Conti una lettera correttissima e in un certo senso estremamente ridicola. Si era scusato di essere scappato, aggiungendo che se lo aveva fatto era stato soltanto perché aveva avuto l'impressione che un tale, un subalterno, fosse stato incaricato di somministrargli del veleno. In realtà Fabrizio sperava soltanto che quella lettera potesse finire in mano a Clelia. Aveva continuato a piangere scrivendola e aveva concluso con una frase molto divertente. Aveva infatti avuto il coraggio di scrivere che ora, in libertà, gli capitava spesso di pensare con nostalgia alla sua stanzetta della Torre Farnese. Era il punto essenziale di tutta la lettera questo, e lui sperava che Clelia lo avrebbe capito. Provando sempre più gusto a scrivere lettere e sperando sempre che quelle lettere potessero finire in mano a una certa persona, Fabrizio scrisse poi a Don Cesare, il cappellano della prigione, per ringraziarlo di avergli prestato certi libri di teologia. Qualche giorno dopo, Fabrizio costrinse il proprietario della piccola libreria di Locarno a fare il viaggio fino a Milano per comprare da Reina, il famoso bibliomane, le edizioni più belle che si potessero trovare di quelle opere. e le spedì poi a Don Cesare con una bella lettera, in cui gli diceva che siccome i libri ricevuti in prestito quando era alla cittadella li aveva rovinati lasciandosi andare a scrivere sui margini una quantità di ridicole annotazioni, scortesia che forse poteva essere perdonata a un povero prigioniero, si permetteva ora di offrirgli in cambio quei volumi nuovi, sperando che egli volesse accettarli come segno della sua più viva riconoscenza. Fabrizio era decisamente troppo buono a definire annotazioni gli interminabili scarabocchi di cui aveva riempito i margini di un infolio delle opere di San Girolamo. Contando proprio sul fatto che avrebbe potuto restituire quel libro a Don Cesare, Fabrizio ci aveva scritto giorno per giorno un resoconto preciso di tutto quanto gli era capitato in prigione. I fatti più importanti raccontati in quel diario non erano altro che estasi di amore divino. E l'aggettivo divino stava al posto di un altro che Fabrizio non aveva avuto il coraggio di scrivere. A volte quel divino amore induceva il prigioniero a una disperazione profonda. Altre volte una voce che veniva dall'aria gli dava nuove speranze e lo riempiva di gioia. Per fortuna quel diario era stato scritto con un inchiostro da prigione fatto di vino, cioccolato e fuliggine, e Don Cesare, rimettendo nella sua biblioteca le opere di San Girolamo, si era limitato a dargli soltanto un'occhiata. Se avesse guardato un po' più attentamente, sarebbe venuto a sapere che un giorno il prigioniero, credendosi avvelenato, si era rallegrato per la possibilità che gli si offriva di morire a meno di 40 passi dall'oggetto del suo unico amore. Ma dopo la fuga di Fabrizio, qualcun altro aveva letto quelle righe. Quel suggestivo concetto, morire accanto a ciò che si ama, espresso in un'infinità di variazioni, era seguito da un sonetto in cui si apprendeva che l'anima, separata dopo atroci tormenti dal fragile corpo in cui per 23 anni aveva abitato, sospinta da quella aspirazione alla felicità che è connaturata a ogni cosa viva, una volta libera e nel caso in cui i suoi peccati le fossero perdonati, non sarebbe salita al cielo per prendere il suo posto nei cori angelici, no, più felice dopo la morte di quanto lo fosse mai stata in vita, si sarebbe diretta verso il luogo poco distante da quella prigione in cui così a lungo aveva dovuto soffrire per riunirsi al suo unico amore. E così, diceva l'ultimo verso del sonetto, in terra troverò il mio paradiso. Benché alla cittadella tutti dicessero che Fabrizio era soltanto un infame traditore che era venuto meno ai suoi doveri più sacrosanti, pure Don Cesare andò in visibilio alla vista di quegli splendidi volumi che gli erano stati regalati da uno sconosciuto. Fabrizio, infatti, aveva preso la precauzione di scrivergli qualche giorno dopo la spedizione del pacco per evitare di vederselo respingere in malo modo. Don Cesare non fece parola di quel regalo a suo fratello, che solo a sentir nominare Fabrizio andava su tutte le furie. Ma dopo l'evasione di Fabrizio, il cappellano e suo nipote erano ridiventati molto amici e dato che una volta le aveva insegnato un po' di latino, lui le fece vedere i bei libri ricevuti in regalo. Era proprio quello che Fabrizio aveva sperato. Mentre stava sfogliando quei libri, Clelia, di colpo, diventò tutta rossa. Aveva riconosciuto la scrittura di Fabrizio. Lunghe strisce di carta gialla erano inserite come segnalibri tra le pagine del volume. Bisogna ammetterlo, Fra l'ottusità degli interessi materiali e l'incolore freddezza delle idee meschine che occupano la nostra vita, è raro che un gesto mosso da una vera passione non raggiunga il suo scopo. Fu come se una benevola divinità si preoccupasse di condurla per mano, e Clelia, la mente fissa a quell'unico pensiero, chiese d'impulso allo zio di poter confrontare la vecchia edizione delle opere di San Girolamo con la nuova. E dopo la cupa malinconia che l'aveva invasa da quando Fabrizio se n'era andato, si sentì immensamente felice. Trovò il sonetto, la storia, giorno per giorno, dell'amore che Fabrizio aveva provato per lei. Lo imparò subito a memoria, quel sonetto. Lo cantava, stando al davanzale della finestra, guardando la finestra ormai vuota della prigione, dove tante volte aveva visto aprirsi quello sportello nello schermo di legno. Ma lo schermo non c'era più. Lo avrebbero portato in tribunale come corpo di reato in un ridicolo processo che Rassi stava istruendo contro Fabrizio, imputato del delitto di evasione, o, come diceva ridendo lo stesso giudice, di essersi sottratto alla clemenza di un magnanimo principe. Una sera, dopo aver passato quasi tutta la giornata a piangere in cappella, Clelia chiese allo zio, don Cesare, di accompagnarla dal generale, le cui crisi di collera la spaventavano ancora di più, adesso che lui si sfogava di continuo a imprecare selvaggiamente contro quello sporco traditore di un Fabrizio. Quando fu di fronte al padre, Clelia riuscì a dirgli che, se aveva sempre rifiutato di sposare il marchese Crescenzi, lo aveva fatto soltanto perché non si sentiva minimamente attratta da quell'uomo, perché era sicura che quel matrimonio non l'avrebbe mai resa felice. Il generale incominciò a dar fuori di matto. Clelia dovette fare uno sforzo per poter riprendere la parola. Poi disse che se suo padre, impressionato dalle ricchezze del marchese, avesse ritenuto opportuno darle l'ordine esplicito di sposarlo, lei gli avrebbe obbedito. Il generale rimase sbalordito. Non se l'aspettava proprio una conclusione del genere. Comunque ne fu molto soddisfatto. Così disse al fratello: anche se per colpa di quello sporcaccione di Fabrizio finisco per perdere il posto, non dovrò ridurmi a andare a stare in un appartamento al secondo piano. Gina, per prudenza, aveva anche affittato un appartamento per Fabrizio a Locarno. Si vedevano tutti i giorni. Quando lui non veniva a Belgirate, era lei che andava in Svizzera. Per avere un'idea di quanto fossero allegri quei loro eterni incontri a due, basta pensare a questo particolare. La marchesa del Dongo e le figlie vennero a trovarli un paio di volte, e la presenza di quegli estranei fu per loro un vero sollievo. Una sera Gina era a Locarno, in casa di Fabrizio. C'erano anche la marchesa e le sue due figlie. L'arciprete e il parroco erano venuti a porgere i loro omaggi alle signore. A un certo punto l'arciprete, che per i suoi interessi in una certa impresa commerciale era sempre bene informato, disse: «È morto il principe di Parma». La duchessa diventò pallidissima. Trovò appena la forza di chiedere: «Ci sono particolari?» «No», rispose l'arciprete. «Si sa soltanto che è morto, ma è una notizia sicura». Gina guardò in faccia Fabrizio. «È per lui che l'ho fatto», pensò. «E avrei fatto cose ancora più terribili. E lui se ne sta qui davanti a me, indifferente, pensando a un'altra donna». Era troppo. Non poteva resistere a un'idea così spaventosa. Si sentì svenire, cadde, le corsero tutti incontro, ma appena aprì gli occhi, lei vide che Fabrizio era quello che si dava meno da fare. Sembrava soprappensiero, come al solito. Dopo che i due preti si furono congedati, Gina disse che voleva andare a buttarsi sul letto. Aveva bisogno di star sola. Certo, pensava, dovrei aspettare un paio di mesi prima di tornare a Parma, ma non ci riuscirò, lo sento. Soffro troppo. Qui non posso resistere a vederlo così, sempre zitto, sopra pensiero. Chi me l'avrebbe detto che mi sarei annoiata a passeggiare con lui su questo bel lago, con lui, da soli, dopo che per vendicarlo ho fatto cose che non posso neanche dirgli. Dopo una cosa simile, meglio morire. Ero felice come una bambina a Parma quel giorno, quando lui è tornato da Napoli. E adesso sto pagando tutto. Bastava che dicessi una parola. Se stava con me, forse non ci avrebbe mai neanche pensato a Clelia. Ma non potevo parlare, non potevo dirgliela quella parola. Mi faceva orrore. E adesso è lei che ha vinto. È naturale, del resto. Lei ha 20 anni, io il doppio. E poi le malattie, le preoccupazioni. Sì, è solo a Parma che posso usare di quel po' di vita che mi resta. E farò la grandana. Ma se ormai non fossi così insensibile al successo mondano, come ci soffriva la Raversi. Era l'invidia della gente come lei che mi faceva apprezzare la mia fortuna. Quanto alla mia vanità, c'è almeno questo di buono. È come se il mio cuore fosse morto. Ma nessuno potrà capire che cosa sia stato a ridurmi così. Forse lo capirà soltanto Mosca. Continuerò a amarlo, Fabrizio, a proteggerlo. Ma non deve mandare a monte il matrimonio di Clelia. Non deve sposarla lui. No, questo no. Ma in quel punto del suo triste monologo, Gina sentì un gran rumore per casa. Era Bruno, l'uomo di fiducia di Mosca. Con lui c'era soltanto la cameriera. Gina andò vicino alla porta finestra. Bruno stava raccontando alla cameriera di essere stato ferito. Gina entrò nella stanza. Bruno la scongiurò di non dire a Mosca che lui le era entrato in casa a un'ora così assurda. Poi le disse: «Quando sono partito c'era molto movimento tra il popolo. Volevano fare la pelle a Rassi, il fiscale generale. E volevano anche andare a bruciare le porte della cittadella per cercare di far scappare i prigionieri. Certi dicevano che Fabio Conti era pronta a fargli tirare addosso con i cannoni, però c'erano degli altri che dicevano che gli artiglieri della cittadella avevano buttato dell'acqua sulle polveri perché non se la sentivano di massacrare i loro cittadini. Poi c'erano degli altri che volevano andare nel giardino della corte a buttar giù quella bella statua del principe, ma il signor Conte ha preso un battaglione della guardia, l'ha schierato davanti alla statua e ha fatto dire alla gente che avrebbe ammazzato tutti quelli che fossero entrati, e la gente si è spaventata. Ma la cosa più straordinaria, me lo son fatto ripetere da quell'uomo che è un ex gendarme, è che il signor Conte ha preso a pedate il generale P, il comandante della guardia, gli ha strappato le spalline e l'ha fatto buttar fuori del giardino da 2 soldati. Poi la duchessa aprì la lettera di Mosca e incominciò a leggerla, ma si interrompeva continuamente per chiedere a Bruno altri particolari. Era una lettera molto divertente. Il contenuto era tremendamente drammatico. Eppure, in ogni parola ci si sentiva dentro un grande entusiasmo, una gran gioia. Mosca evitava i particolari sulla morte del principe e finiva con queste parole: «Adesso tornerai, vero, angelo mio? Ma ti consiglio di aspettare un paio di giorni, finché arriverà il corriere che la principessa ti manderà, spero oggi o domani. Bisogna che il tuo ritorno sia splendido, almeno quanto è stata temeraria la tua partenza. Quanto a quel famoso criminale che ti tiene in casa, conto di farlo giudicare da un collegio di 12 magistrati fatti venire da tutte le parti dello Stato, ma per far punire quel mostro come si merita, bisogna che io abbia il tempo di stracciare in tanti pezzettini la prima sentenza, se esiste». Poi Mosca aveva riaperto la lettera e aveva aggiunto queste righe: «C'è un'altra faccenda. Ho appena fatto rifornire di munizioni 2 battaglioni della guardia. Adesso vado a combattere e ti assicuro che farò del mio meglio per meritarmi quel soprannome di feroce che i liberali mi hanno graziosamente affibbiato da tanto tempo. Quella vecchia mummia del generale P ha avuto il coraggio di dire in caserma che sarebbe stato il caso di venire a patti con il popolo, proprio mentre ci si trova di fronte a una mezza rivolta. Ti scrivo stando in strada. Adesso vado a palazzo. Dovranno uccidermi se vogliono entrare. Addio. Se muoio, morirò adorandoti, nonostante tutto, così come ho vissuto. Non dimenticarti di far ritirare quei 300.000 franchi che sono depositati a tuo nome a Lione. C'è qui quel povero diavolo di Rassi, pallido come un morto, senza parrucca. Non hai idea di che cosa sia la sua faccia. Sono decisi a impiccarlo, ma gli farebbero davvero un gran torto. Lui si merita di essere squartato. Era venuto a nascondersi a casa mia e si è messo a corrermi dietro per strada. Non so neanch'io che cosa devo fare. Portarlo a palazzo non posso, vorrebbe dire far scoppiare la rivolta proprio lì. F si renderà conto che gli voglio veramente bene. La prima cosa che ho detto a Rassi è stata: voglio l'originale e tutte le copie della sentenza contro il signor Del Dongo. E a quei maledetti giudici che sono la vera causa di questa rivolta, potete dirgli che se si lasciano scappare una sola parola su quella sentenza, io li faccio impiccare tutti, compreso voi, mio caro amico. Quella sentenza non è mai esistita, capito? Thank you.